Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo sulla notizia arrivata ieri, quando il programma praticamente si era concluso da pochi minuti, e quindi l'acquisto a parte di Arnaud del marchio Loro Piana, acquisto l'80%, la famiglia resta dentro, ma 2 miliardi il prezzo pagato, come oggi leggete su tutti i giornali. In realtà ne parleremo perché spesso in questi casi c'è la polemica, ecco, che i marchi più prestigiosi dell'Italia vengono venduti a saldo. Oddio, il prezzo non mi sembrava così da saldo. Comunque, lo shopping straniero in Italia e nel caso specifico quello francese. Infatti Louis Vuitton Moinessy, oltre a Loro Piana, è lo stesso gruppo che ha lanciato l'offerta, ha acquisito la quota di maggioranza della pasticceria Cova a Milano. Poca cosa, voi direte, però attenzione, noi abbiamo avuto già un passaggio del gruppo Valentino ai reali del Qatar, e qui non c'entra Louis Vuitton Moinessy, però ci sono stati anche altri passaggi, ricorderete tutti quanti bulgari, ma non solo. Il gruppo Brioni al gruppo francese PPR, sono due, no? Arnaud e Pinot, i due grandi, diciamo, guru, soprattutto grandi compratori e leader nel settore del lusso. Dicevo, ci sono state tante acquisizioni straniere in Italia. La cosa interessante, però, e di questo parleremo, appunto 2011 Bulgari passa a Louis Vuitton Moinessy, Ferret ceduta al Paris Group di Dubai, Parmalat che va ai francesi di Lactalis. Ci sono state però anche tante acquisizioni italiane all'estero, forse fanno meno notizia, ma alcune di valore non enorme, qualche decina di milioni di euro, ma ci sono state. Allora il punto è capire se veramente il paese stia non svendendo, ma vendendo i suoi marchi più prestigiosi all'estero e sia un male, oppure se in realtà faccia parte normalmente del mercato, anche perché, attenzione, questo è un problema di alcune nostre imprese. A noi mancano i colossi, è chiaro che il gruppo PPR o Louis Vuitton Moinessy garantiscono poi una presenza mondiale, una rete mondiale e una struttura anche mondiale. Ora, chi vi parla da sempre, non è un mistero, preferirebbe che i marchi italiani venissero venduti a italiani, ma come, così, come desiderata, non come ragionamento economico-finanziario. Siamo in un mercato aperto e questo è il mercato. Però ne parleremo più avanti. Per quello che riguarda invece l'apertura del programma, abbiamo novità su Fiat. Parleremo anche della vicenda Rizzoli Corriere della Sera, dopo la lettera scritta dall'industriale Diego Della Valle, azionista del gruppo che ha partecipato all'aumento di capitale, e la risposta arrivata dal Presidente della Repubblica. Giorgio Napolitano infatti ha detto: è mio impegno quotidiano richiamare tutte le forze rappresentative del Paese al massimo sforzo di lungimiranza e di coesione in questa delicata fase della vita nazionale. Vabbè, però la sostanza è che il Presidente della Repubblica ha detto a Della Valle: non spetta a me alcun commento sulla vicenda Rizzoli Corriere della Sera. Questo dopo l'appello di Della Valle, la lettera di Della Valle a Napolitano, in cui chiedeva un passo indietro di Fiat, di Intesa San Paolo, di Mediobanca. Invece di rafforzare le nostre posizioni, facciamo tutti un passo indietro, lasciamo completamente l'azionariato di Rizzoli Corriere della Sera, liberandolo così da tutte le vecchie polemiche e da tutte le dietrologie di ogni tipo. Questa ha una ripercussione anche sul titolo in borsa, da un lato, e visto che parliamo di borsa iniziamo col dare però tutto l'andamento del settore azionario, che è invariato in questo momento a Milano, mentre Parigi guadagna lo 0,70, Francoforte l'1,30, Londra più 1%. È invariato perché, nonostante Telecom Italia guadagni il 3,70%, Salvatore Ferragamo l'1,5%, Fiat Industrial l'1,30, Fiat l'1%, Tenaris pure e Saipem lo 0,80%, perde Mediaset il 3,20%, la Popolare di Milano e le banche in generale sono in flessione, non pesantissima ma flessione, meno 2,5% la Popolare Emilia Romagna e anche la Popolare Milano, e il Banco Popolare perde il 2,20%, Pirelli il 2%, Diasorin il 2%, ST Microelectronics il 2%, A2A meno 1,20%, Mediobanca meno 1,1% come Enel, Green Power e Prismian. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Oltre ai temi che ho già annunciato, le altre notizie in breve come sempre in apertura del programma. Partiamo come sempre anche dagli altri mercati, come li chiamiamo, oro e petrolio. Oro in rialzo a $1,250 all'oncia, petrolio sostanzialmente stabile ma sempre sopra i $100 al barile, a $102,59. Riduzione da parte del Fondo Monetario Internazionale della crescita mondiale quest'anno, crescerà il mondo. Il PIL del mondo crescerà del 3,1% e non uno 0,2 in meno, l'anno prossimo invece una crescita un po' più robusta al 3,8%. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, nel 2013 faranno più 1,7%, anche qui rispetto a un 1,9 inizialmente stimato. E poi per quello che riguarda la Cina, vi sarà una frenata, voglio dire, in Cina la frenata vuol dire che crescerà del 7,8% invece che dell'8,4%, e crescerà nello stesso modo anche nel 2014, però la Cina 7,7% anche in questo caso contro un 8,3%. Chi peggiora sensibilmente è l'area euro, e purtroppo che noi siamo il vaso di Koch in questo momento non è una novità. Perché? Perché nel 2013 l'area euro farà meno 0,6%, l'Italia farà meno 1,8%, però conferma il Fondo Monetario Internazionale un più 0,7% l'anno prossimo. E ancora, questa è un'analisi che non c'entra col Fondo Monetario Internazionale, ma è un'analisi del Financial Times. Saranno soprattutto le piccole e medie imprese di Germania e Francia a beneficiare dei tassi bassi della Banca Centrale Europea, mentre per quelle italiane arriverà appena una piccola boccata di ossigeno. È un'analisi appunto del Financial Times, elaborata sui dati della BCE, e calcola il Financial Times che se le piccole e medie imprese tedesche rifinanziassero i propri prestiti ai tassi bassi di adesso, risparmierebbero 13 miliardi di euro, quelle francesi 9 miliardi e quelle italiane solo 1,5 miliardi. Ecco perché anche i tedeschi non dovrebbero lamentarsi della politica della Banca Centrale Europea, che appunto va a vantaggio anche e soprattutto, lo dice il Financial Times, del sistema di piccole e medie imprese tedesco. Lo spread italiano è a 272 punti, quindi leggermente sopra quota 270, e ancora oggi di un rapporto con l'Europa e soprattutto degli eventuali aiuti da chiedere all'Europa ha parlato il Premier Enrico Letta in un'intervista a BBC Radio 4. Ha detto: sono sicuro che dobbiamo solo continuare con il cammino del programma di riforme strutturali avviato e sono abbastanza fiducioso sullo stato di salute dell'economia, per cui l'Italia è al primo posto in Europa, aggiunto, per consolidamento fiscale, che non ha nulla a che fare con il fisco ma vuol dire con il risanamento dei conti pubblici, per cui no, i conti sono a posto, non avremo bisogno di nessun aiuto da parte dell'Europa. Oh, questo è un dato che riguarda va letto per chi ogni tanto mi scrive: ma dov'è la crisi? I ristoranti sono sempre pieni, le autostrade siamo sempre in coda, e ogni volta ripetiamo: attenzione, non è che la crisi è una bomba nucleare che azzera qualunque cosa, però sul fronte ristoranti e alberghi abbiamo visto una contrazione significativa delle permanenze, si va in vacanza per un tempo più breve, si sfrutta magari il weekend, ma non esistono più le vacanze lunghe di qualche anno fa. E anche sul traffico autostradale, il dato di oggi è dell'AISCAT, è relativo al 2012, ma è molto netto. Il traffico sulla rete autostradale a pedaggio è calato del 7%, allora, o 7,2 per la precisione. O improvvisamente l'anno scorso gli italiani hanno smesso per motivi personali privati di andare in autostrada, oppure questa è una conseguenza immediata di un minor traffico merci e anche di minori spostamenti degli italiani, perché il pedaggio costa. Uno può sempre immaginare che qualcuno prenda la strada non a pedaggio rispetto all'autostrada, ho capito, però non è così semplice. In realtà c'è stata una contrazione anche degli spostamenti dovuti alla crisi, punto e basta. Vedo alcune domande già sulla Fiat, ne parleremo più avanti, perché il amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne oggi ha visitato lo stabilimento della Sevel in Val di Sangro, dove ha presentato un investimento di 700 milioni in 5 anni per il restyling della Ducato. Lo stabilimento Sevel è una joint venture, in realtà, quindi una società a doppia partecipazione tra Fiat e Peugeot Citroën. Vengono prodotti veicoli commerciali appunto leggeri, tipo Fiat Ducato, il Peugeot Boxer e il Citroën Jumper. E occupa 6.200 persone ed è la più importante realtà industriale dell'Abruzzo. Però è arrivata una minaccia, un avvertimento da Sergio Marchionne. Ha detto: attenzione, senza regole certe, quello alla Sevel, questi 700 milioni in 5 anni, sarà l'ultimo investimento del gruppo Fiat, se non abbiamo un quadro normativo certo e con regole chiare. Prima di avviare qualunque altra iniziativa in Italia, abbiamo bisogno di poter contare sulla certezza di gestione e su un quadro normativo chiaro ed affidabile. Abbiamo bisogno di sapere che gli accordi vengono rispettati, che vengono riconosciute e tutelate la libertà di contrattazione, la libertà di fare impresa, come avviene nei paesi di normale democrazia. Sì, scrive un ascoltatore, vogliamo essere un po' ottimisti, l'anno prossimo cresceremo, basta fare il gufo. No, per carità, si figuri, l'anno prossimo, stante le previsioni, ci sarà un più 0,7%, più 0,5%, non sufficiente, ma meglio appunto che un altro segno meno. Tra l'altro qualche segnale nel mondo degli investimenti e della pubblicità si vede, ma soprattutto oggi è arrivato a questo proposito un segnale importante per quello che riguarda le famiglie italiane e la propensione alla spesa, al risparmio, scusatemi, e l'andamento dei consumi. Prima di arrivare a questo però vorrei ancora leggere due notizie. Una riguarda, anzi, soprattutto quella dell'Agicom, visto che parlavamo di investimenti, pubblicità, ciclo economico. Allora, l'Agicom, che è l'autorità di vigilanza sulle comunicazioni, ha dato oggi i dati sul 2012. Allora, meno 6% i ricavi delle telecomunicazioni nel 2012, la rete fissa ha fatto meno 5,7%, quella mobile meno 7,1%. Sempre la Gcom, sul fronte invece network televisivi, in corona Sky come numero uno in Italia sul fronte dei ricavi. Sky ha rastrellato l'anno scorso 2,63 miliardi di euro, il 32% totale, Mediaset 2,49 miliardi, anche qui il 30, ma con un calo molto forte, Mediaset meno 13%, la RAI ha avuto ricavi per 2 miliardi e 340 milioni, anche qui un calo del 7,5%. Sul fronte dell'editoria, 1 miliardo in meno di ricavi, sia sull'editoria periodica che quella quotidiana, che dei quotidiani nel 2012, è dovuto soprattutto al calo della pubblicità, e infatti i ricavi pubblicitari sono andati malissimo dappertutto tranne che su internet, perché più 10% ha fatto internet a 1 miliardo e 400 milioni, in calo invece tutte le altre voci. Nello specifico la pubblicità in radio ha fatto in media un meno 7%, meno 10% invece sul fronte stampa. Dicevo, queste le notizie. C'è però, visto che le chiedete, ci mancherebbe, una buona notizia. Va presa con le pinze, quindi non c'è nessun gallo, non c'è nessuna campana, però dopo mesi di cali continuativi un segnale di miglioramento sul reddito disponibile delle famiglie e anche sulla propensione al risparmio è arrivato finalmente, ma è arrivato. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. C'è perché la propensione al risparmio delle famiglie è in ripresa. Nei primi tre mesi del 2013, al netto di variabili stagionali, è stata pari al 9,3%, un aumento di quasi un punto percentuale, sia rispetto a un anno prima sia rispetto al trimestre precedente. Il reddito disponibile delle famiglie è salito, lo dice sempre l'Istat, dello 0,8% nei primi tre mesi del 2013. È una media, so benissimo le obiezioni che arriveranno, è una media, delle volte la media rischia l'effetto dei polli di Trilussa, però questo è il dato. La spesa delle famiglie è invece ferma nei primi tre mesi dell'anno e ancora in calo di 1,5% rispetto all'anno prima. E domani il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni si è detto fiducioso che si raggiungerà un accordo sull'IMU, lo ha detto oggi da Bruxelles. Domani è prevista infatti una riunione di maggioranza. Saccomanni ha detto: sono fiducioso che vi sarà un esito positivo. Sull'IMU il governo lavora l'ipotesi di agire anche sui capannoni industriali, ma solo nel 2014. Come no, abbiamo la riunione domani e questo è lo scopo di queste riunioni. Quindi questo era indicato già nel decreto con quale abbiamo rinviato l'IMU e è una cosa che riguarda il 2014, insomma, perché si guarda i redditi di impresa dell'anno prossimo, quindi ci stiamo lavorando nella preparazione degli interventi del 2014. Così il ministro Saccomanni. Alcuni di voi mi chiedono: ma insomma, lei scommetterebbe un euro sulla crescita per il prossimo anno? Finirà come gli anni scorsi, che fra alcuni mesi le stime verranno corrette? Oddio, ne abbiamo visto di tutti i colori in questi anni. In realtà le stime su un principio di ripresa a fine 2013 le hanno mantenute tutti gli istituti, il Centro Studi Confindustria, la Banca d'Italia, anche il Fondo Monetario, quindi insomma lo vedremo subito se nell'ultimo trimestre dell'anno non c'è un minimo di avvio di ripresa. È chiaro che andranno riviste ora come ora, anche perché una cifra così, diciamo, modesta, un più 0,7%, perché non mantenerla, no? E sempre sui temi che riguardano l'Europa, ma anche l'Italia, il ministro Saccomanni ha detto che l'Unione Europea deve andare avanti con l'unione bancaria, quella che metterà le 100 principali banche dell'Europa sotto controllo diretto della BCE, e quindi se fallisce una banca non c'è un effetto domino sul paese a cui la banca appartiene, ma viene, diciamo, il salvataggio verrebbe operato dalla BCE direttamente. La Germania è molto molto scettica su questo piano. Di questo ha parlato oggi anche il presidente di Confindustria Squinzi in audizione in commissione politiche dell'Unione Europea alla Camera. Confindustria pensa che l'Unione Europea non possa essere solo una zona economica di libero scambio e che noi pensiamo anche che l'integrazione economica, di bilancio, finanziaria, politica debba essere implementata in via prioritaria. Quindi noi riteniamo in questa direzione quanto mai urgente realizzare in tempi rapidi una vera e propria unione bancaria in modo da ridurre la crescente frammentazione finanziaria che sta penalizzando soprattutto le condizioni di accesso al credito delle nostre piccole e medie imprese. E poi c'è un altro passaggio dell'intervento del presidente Confindustria Squinzi, su cui io sono d'accordo al 100%, poi so già l'obiezione, certo, è l'editore del Sole 24 Ore, non me ne frega nulla, sono d'accordo perché lo diciamo da un anno e mezzo, anche due, e cioè la politica della sola austerità ha gelato l'economia dell'Unione Europea, l'ha messa come in un freezer, e lo si vede dai dati, tutte le altre economie sono ripartite, tutte, tranne un'economia, quella dell'euro, neanche quella dell'Unione Europea, perché la Gran Bretagna ha un'altra dinamica. Forse qualcosa abbiamo sbagliato anche noi, come europei, come Bruxelles, come paese del rigore, soprattutto al nord. E comunque Squinzi dice la politica dell'austerità, fine a se stessa, con aumenti della pressione fiscale e tagli non sempre efficaci alla spesa pubblica, hanno gelato l'economia alle prese già con una recessione senza precedenti. Le ricette che sono state messe a punto a livello europeo per affrontare la crisi hanno sicuramente il rigore che è stato imposto a tanti paesi, in modo particolare poi al nostro paese, per via dell'ampiezza dei debiti pubblici, ha sicuramente consentito di rimettere in ordine in generale i conti della maggior parte dei paesi, però è anche vero che le politiche di austerità che si sono poi effettivamente tradotte in aumenti della pressione fiscale e in tagli che non sempre sono stati poi veramente effettuati della spesa pubblica, hanno causato un crollo dei consumi interni, una gelata dell'economia, per cui tutti ricordiamo che per quest'anno la previsione per l'Europa è di un calo del PIL nell'ordine dello 0,6%. E perfino paesi che hanno adottato a sentire comune le politiche giuste, hanno fatto le cose giuste, le riforme necessarie, come la Germania, quest'anno avranno dei modestissimi incrementi nell'ordine dello 0,3-0,4%, quando tutte le altre aree economiche mondiali invece stanno o galoppando o comunque espandendosi con vivacità. E poi un ultimo passaggio riguarda, visto che parlavamo di previsioni, molti di voi stanno scrivendo sul più 0,7% dell'anno prossimo, non facciamoci illusioni, è meglio un più nella vita, questo è un po' alla catalano, è meglio un più che un segno meno, però attenzione, non è l'effetto cinghia di trasmissione sull'occupazione, sarà un effetto molto lento, voglio dire che anche se riparte un po' l'economia non è che subito vediamo ripartire i dati sull'occupazione. E sull'andamento a fine anno Squinzi dice ci sarà un effetto rimbalzo più 0,3-0,4% come poi effetto sul 2014, quindi più bassa la stima rispetto al Fondo Monetario Internazionale, ma non vi saranno effetti sull'occupazione. Non possiamo dimenticarci che avendo perso circa 9 punti di PIL dal 2007 ad oggi, l'anno 2012 il PIL è sceso del 2,4, quest'anno la proiezione ci indica già un 1,8-1,9, non sarà, abbiamo perso il 25% dei volumi di produzione manifatturiera nel nostro paese, abbiamo distrutto il 15% delle nostre capacità produttive chiudendo fabbriche e chiudendo linee produttive all'interno delle fabbriche. Ecco, noi dobbiamo assolutamente avere un obiettivo, non sarà il cambiamento di tendenza a livello dell'economia in generale, dell'economia internazionale, che ci consentirà di ritrovare una vera crescita. Ci sarà sicuramente un effetto rimbalzo, questa è la nostra stima, verso la fine dell'anno dello 0,3-0,4% per il 2014, ma questo se, riteniamo di non sbagliarci dicendo che questo non creerà occupazione nel nostro paese, non creerà lavoro, e noi invece abbiamo un disperato bisogno di creare lavoro e occupazione. 17:39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, partiamo oggi nel raccontare la cronaca di questa, nel continuare a raccontare la cronaca di questa giornata economico-finanziaria dalla Fiat. Perché? Perché ad Atessa, in provincia di Chieti, l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, ha visitato oggi lo stabilimento della Sevel, a quello appunto in Val di Sangro, dove ha presentato l'investimento da 700 milioni di euro in 5 anni per il restyling del Ducato. Marchionne ha detto serve un piano di coesione nazionale. Abbiamo già sentito nella prima parte del programma quel passaggio in cui ha detto senza regole certe quello della Sevel sarà il nostro ultimo investimento, e da qui vorrei partire con l'inviato del Sole 24 Ore Andrea Malan. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Allora, minaccia, avviso, come lo dobbiamo leggere? Perché insomma Marchionne ha anche, poi ne parleremo, altri fronti aperti, ha detto non voglio mettere in discussione gli investimenti annunciati, si è un po' poi corretto, ma non possiamo accettare che comportamenti violenti e il boicottaggio del nostro impegno vengano considerati esercizi di diritti anche da parte di autorevoli istituzioni. Ce l'aveva con la magistratura? Con la sentenza della Consulta? No, ce l'aveva in quest'ultimo passaggio, era un non tanto velato accenno ancora forse al fatto che la Presidente della Camera Boldrini ha incontrato la FIOM, l'ha citata molto velatamente anche all'inizio quando ha ringraziato le autorità che hanno trovato il tempo, ha detto, di venire nonostante i loro impegni. Peraltro, perché la Boldrini, Presidente della Camera, aveva detto appunto non ci sarò, ho altri impegni, ecco, sì, riferimento. Altri impegni. Appunto, come le definite, minacce o avvertimenti, peraltro cioè l'invito di Marchionne a dare regole certe, la presenza di... abbiamo dei seri problemi di collegamento con Andrea Malan, allora aspettiamo un attimo perché mi interessa invece questo passaggio su Marchionne. Dico alla regia, facciamo partire subito la borsa, poi riprendiamo Malan, che voglio riprendere il collegamento con Andrea Malan. Allora facciamo la borsa, poi Fiat e poi Rizzoli Corriere della Sera, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Il bello della diretta. Eccoci con la borsa, grazie al tecnico per seguirmi. Dunque, borsa meno 0,06% non è cosa, meglio invece ha fatto Parigi più 0,50%, Francoforte più 1,12%, Londra più 1%, l'America più 0,47%. Euro a quota 1,27,64%, perché Milano più piatta, anzi piatta rispetto alle altre borse europee. Ne parliamo come sempre con i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore. Tra l'altro faccio anche notare che Telecom Italia va bene, più 3,5%, Mediaset male, meno 3,5%, Rizzoli Corriere della Sera, più 2,84%, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, bancari oggi deboli, partiamo dai bancari appunto, che giustificano anche, spiegano il calo, il non aumento di Piazza Affari oggi. Popolare Emilia Romagna meno 3,15, Popolare Milano meno 2,70 e ancora Banco Popolare meno 2,20, Mediobanca meno 1,40%. Come mai? Sono scattate un po' le prese di beneficio in volata ieri, oggi si è tornati sui propri passi, del resto anche lo spread è in lieve rialzo, ma soprattutto ovviamente c'è grande volatilità sui mercati, c'è molta prudenza. D'altra parte il trend pare che rimanga positivo e del resto le altre borse europee, come hai fatto notare tu, sono tutte salite, non solo, ma i mercati non hanno nemmeno reagito più di tanto alla notizia che il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato, ha dato una sforbiciata alle previsioni sul PIL, portandole per il 2013 al 3,1% rispetto al 3,3% di aprile. È quello che commentavamo prima, quindi un po' di prese beneficio. In realtà però ci sono alcuni settori che vanno bene, per esempio, ne parleremo più avanti, ma l'acquisizione di Loro Piana da parte di Arnaudi, Louis Vuitton Hennessy, ha fatto andare bene oggi il settore del lusso, no? Sì, infatti Ferragamo ad esempio è salito dello 0,8%, Tod's forse per la partita RCS è rimasta più piatta, sul finale è rimasta piatta, comunque le azioni stanno a 115 euro per azione, quindi un livello molto alto, da inizio anno una delle migliori performance tra i titoli di Piazza Affari. E poi sì, tutto il lusso ovviamente non solo in Italia, l'Italia ma in Europa sotto i riflettori, visto che il loro piano è stata pagata oltre 21 volte l'EBITDA, che sarebbe il margine operativo lordo. Ancora per quello che riguarda i titoli su BPM, sulla Popolare di Milano ci sono altre novità, però meno 2,70%. Sulla BPM, forse su altre banche tipo il Banco Popolare, perché sulla BPM in particolare oggi non sono emerse novità, piuttosto a livello di banche invece sin da questa mattina si è messo in evidenza ad esempio il titolo del Banco Popolare, in quanto è uscita la notizia che il Moody's nella tarda serata di ieri ha purtroppo ridotto il giudizio sulla società, portandolo a junk bonds, vale a dire spazzatura, titoli spazzatura. Questo ovviamente ha pesato sulle azioni, che hanno così registrato meno 2,2%, ma soprattutto i titoli andavano male anche sin dalle prime battute di questa mattina, quando Piazza Affari era in rialzo. Sì, scusami, hai fatto bene, volevo dire Banco Popolare, poi guardavo la Popolare di Milano ed era chiaramente sul Banco Popolare che ti volevo, e sull'outlook così negativo di Moody's. Ancora ST Microelectronics meno 2,40%. Anche in questo caso è stata un'agenzia di rating, diciamo, a guastare la festa ai titoli, nel senso che Fitch ha tagliato il giudizio sulla società, e anche in questo caso l'outlook, ovvero le previsioni per il futuro, rimangono negative, quindi i titoli hanno perso il 2,4%, registrando una delle peggior performance. Insieme a Mediaset, come hai notato in anticipo del collegamento, meno 3,5% è uscita, i titoli erano già deboli, ma soprattutto hanno iniziato ad ampliare le perdite quando è uscita la notizia che la Cassazione ha accolto il ricorso della difesa contro la condanna per Silvio Berlusconi, e già il 30 luglio prenderà evidentemente delle decisioni. È stata in borsa, diciamo la verità, anche una scusa, perché da qualche giorno ormai le Mediaset correvano, soprattutto dopo l'indicazione che ci sono segnali positivi di per la raccolta pubblicitaria. Certo. Volete sapere cosa ha fatto Tokyo giustamente questa mattina? Molto bene la chiusura, più 2,60%. Torniamo invece all'Italia, di Fiat parliamo tra un attimo con Andrea Malan. Dici solo la reazione di borsa. La reazione in borsa è stata che Fiat continua a salire, più 0,99%, è andata bene anche Fiat Industrial, oggi è in corso l'assemblea straordinaria per la fusione con CNH, i titoli sono saliti dell'1,29%. Due titoli ancora, RCS, Rizzoli Corriere della Sera, dicevo appunto più 2,80%, ne parliamo anche dopo, e l'altro Telecom Italia, molto bene oggi in borsa, più 3,46%. Questo caso Telecom Italia, diciamo, a riaccendere un po' i riflettori sulla società è stata la presentazione della GCOM, della relazione annuale sul settore delle TLC in Parlamento. Si è parlato molto di quello che sarà lo scorporo della rete, Bernabé tra l'altro ha detto che sullo scorporo non vogliamo sconti, non sono uscite notizie peculiari, però sicuramente si sono riaccesi i riflettori sull'azienda, soprattutto su questa operazione straordinaria. Comunque va notato che le azioni stanno a 0,53 euro, un livello molto molto basso per questi titoli. E poi invece per quanto riguarda RCS, ovviamente la bagarre fa bene al titolo in borsa, la bagarre mi riferisco alla lotta per il controllo tra della Valle e tra Fiat, e i titoli sono saliti di un ulteriore 2%. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, di nuovo in collegamento, se ce la facciamo, con Andrea Malan. Andrea, buonasera di nuovo. Buonasera di nuovo a tutti. Ecco, vediamo di non spalmarti lungo tutta l'ora del programma. Stavamo dicendo prima su Marchionne, io l'avevo definita, cos'è, una minaccia, un avvertimento, e al di là della polemica con la Boldrini c'è anche la sentenza della Consulta. Marchionne ha detto è una sentenza che aggiunge incertezza, perché la frase vista così, senza regole, quella la Sevel di oggi, il nostro ultimo investimento, sembra un po', diciamo, un avvertimento, Sì, sembra un avvertimento, diciamo che è stato temperato dal fatto che sappiamo che ieri Marchionne ha ricevuto una lettera da Maurizio Landini della FIOM che lo invita a tornare al tavolo per abbandonare la via giudiziaria e ripartire con quella del negoziato. Il tempo da qui alle modificazioni della sentenza della Corte Costituzionale non dovrebbe essere lungo. A quel punto le due parti potranno rincontrarsi, si potrà, si spera, riavviare un terreno di dialogo anche con le altre organizzazioni sindacali. Ricordiamo che una parte dei problemi deriva proprio dal fatto dei contrasti e delle forti divergenze di linee tra la FIOMA e le altre organizzazioni sindacali, che oggi erano presenti in fabbrica da Tessa e che hanno incontrato Marchionne. Dopodiché sappiamo anche, e lo ricordo come ultima cosa, che, come ha detto di nuovo Marchionne, il fatto che gli investimenti vengano ritardati non è solo dovuto all'assenza di regole. In fondo, se la cosa fosse così dirimente, Marchionne non avrebbe oggi annunciato questo investimento da 700 milioni. C'è anche un problema di mercato, e il mercato purtroppo in questo momento non fa sconti, e Marchionne stesso ha detto: speriamo nei prossimi 6 mesi di vedere il punto del mercato qua in Italia. Sulla disponibilità a incontrare la FIOM, appunto, è intervenuto Marchionne stesso. Ascoltiamo questo passaggio, veramente un flash raccolto a Chieti, a Tessa. L'apertura c'è da parte nostra, la lettera l'abbiamo ricevuta ieri, quindi i nostri entreranno in contatto con loro per vedersi. Telegrafico, più telegrafico di così, più radiofonico di così, non si può. Chiedono gli ascoltatori: i 700 milioni dello stabilimento di Atessa a cosa serviranno? Se ho ben capito, per il restyling del Ducato? No, sono, diciamo, in parte maggiore per il restyling dello stabilimento, quindi il reparto, la stratura, il montaggio, la verniciatura, e in parte, credo, leggermente minore, comunque meno di metà, per i prossimi modelli, delle prossime versioni del Ducato. Ricordiamo che di 700 la Fiat ne spenderà 550 in 5 anni, quindi sono poco più di 100 milioni l'anno, il resto sarà a carico di Peugeot, che rimane partner perché produce anche i furgoni sulla stessa piattaforma, e Marchionne stesso ha detto oggi che spera che la collaborazione prosegua. Grazie Andrea Malan, in collegamento con noi appunto da Atessa in provincia di Chieti. E vorrei iniziare, non ce la faremo adesso esaurirlo, ma affrontare il terzo tema di questa puntata, prima di arrivare allo shopping francese in Italia. Insomma, a quello che sta capitando nel gruppo Rizzoli Corriere della Sera. È un tema anche economico, chiaro che è un tema di editoria e, se vogliamo, anche di poteri, ma insomma, la lettera di Della Valle a Napolitano ha risposto oggi dicendo sostanzialmente: non c'entro. Ma insomma, alza obiettivamente il livello dello scontro tra Della Valle da una parte e la Fiat, gli azionisti Fiat dall'altra, dopo l'aumento di capitale sottoscritto sia da Della Valle che dalla Fiat. Sarebbe necessario che noi tutti, il gruppo che io rappresento, virgola, la Fiat, virgola, Intesa San Paolo e Mediobanca, invece di rafforzare le nostre posizioni, facessimo un passo indietro e lasciassimo completamente l'azionariato di Rizzoli Corriere della Sera, liberandolo così da tutte le vecchie polemiche e da tutte le dietrologie di ogni tipo. Questo è un passaggio della lettera inviata ieri da Diego Della Valle al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, una lettera in cui veniva chiesta una voce forte al di sopra delle parti della massima autorevolezza. Risposta di Napolitano oggi: non entro io nel merito, dopo aver detto il mio impegno a richiamare le forze, la massima lungimiranza e coesione, ha detto Napolitano: non spetta a me alcun commento su tali questioni. Antonello Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ho 30 secondi, dimmi solo, l'ha rimandata al mittente il Presidente della Repubblica questa? Diciamo che sta ricevendo telefonate anche da altri azionisti di RCS, però obiettivamente RCS è una società privata, è vero che l'informazione sulla prima dirlo è un bene pubblico da tutelare, è anche vero che forse non è una tematica di un Presidente della Repubblica intervenire in vicende dell'azionariato di una società privata. Sì, appunto, adesso va bene tutto, è vero che il Presidente è molto presente, ma anche sugli aumenti di capitale, insomma. Allora, facciamo così: dopo il GR ci racconti il resto, perché in realtà giovedì è prevista anche una riunione del Consiglio di Amministrazione del gruppo. Intanto appunto il GR 349 238 6666 per i vostri sms, E poi la pagina di Focus Economia su Facebook mi fa ridere un ascoltatore che dice: quando hai dei problemi scrivi a Napolitano. Vabbè, GR. Alle 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Stavamo appena iniziando a ragionare con Antonella Olivieri di quello che sta capitando nel gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Tra l'altro oggi Sergio Marchionne, riferendosi alla lettera di Della Valle al Presidente della Repubblica Napolitano, ha detto: Della Valle può fare ciò che pensa più opportuno, per noi l'investimento e ha riconfermato quanto ho già detto ieri, abbiamo sempre avuto interessi in Rizzoli Corriere della Sera, per noi è un investimento importante, si tratta di proteggere qualcosa che è stato nel gruppo da anni e rappresenta qualcosa di valore. Questo dopo appunto che l'aumento di capitale era stato sottoscritto da Fiat, che va a una quota del 20%, Della Valle lo ha sottoscritto e ha una quota dell'8,8%. Mercoledì Antonella Olivieri partirà all'asta dei diritti inoptati, durerà 5 giorni. Giovedì riunione del Consiglio di amministrazione. Che cosa dobbiamo attenderci? Ma soprattutto come mai questa lettera, non dico fulmine a ciel sereno, perché i rapporti Della Valle dentro Rizzoli sono cosa nota, però insomma forse non ce la immaginavamo. Antonella. Ma se la vogliamo leggere un po' dietrologicamente, diciamo che l'impressione che io ho personalmente è che non siano soddisfatte le condizioni che aveva posto per la sottoscrizione dell'inoptato e che quindi Della Valle si limiterà a fare la propria parte rimanendo all'8,8. La Fiat intanto ha fatto qualcosa che era oltre quello che aveva concordato all'interno del patto, cioè di salire soltanto del 2,8%, in realtà ha raddoppiato la quota, quindi di fatto da questo aumento di capitale è molto probabile che uscirà un nuovo singolo azionista di riferimento, che non è più il gruppo di Rotelli che si è diluito non avendo sottoscritto l'aumento, è la Fiat, che prima che Mediobanca fosse diventasse il primo azionista all'interno del patto, era la Fiat il primo azionista all'interno del patto, si ritorna un po' all'antico, del resto questa quota del 20% non è tale allo stato attuale da far prefigurare un cambio di controllo, perché il patto di sindacato resterà sempre per il momento sopra il 51%, quindi c'è una maggioranza che è stata ricomposta dall'aumento di capitale, ma la maggioranza fa sempre capo del capitale a livello assoluto, fa sempre capo a un patto. Patto tra l'altro in scadenza, perché al massimo a primavera dell'anno prossimo non sarà più questo il patto in vigore, potrebbe non esserci anche in futuro più nessun patto in realtà per RCS. Ecco, però molti ascoltatori si chiedono, ma qual è e qual era l'obiettivo di Della Valle? Ho capito l'appello a Napolitano, tu dici probabilmente, o l'ipotesi può essere che lui non sia stato soddisfatto interamente rispetto agli accordi presi e quindi sull'inoptato. L'inoptato... E quindi abbia chiesto l'intervento di un'autorità superiore, quello per cui siccome aveva posto, come già venerdì scorso in conferenza stampa, come condizione alla disponibilità a sottoscrivere l'inoptato che fosse ascoltato nelle sue richieste, in realtà le sue richieste di fatto dovrebbero presupporre che la Fiat di John Elkann, che è l'antagonista, gli venisse incontro. Non mi pare che ci siano rapporti tali dove i due non mi pare ci sia proprio questo grande amore, ecco. Apprezziamo l'eufemismo. Senti, giovedì prossimo c'è una riunione del Consiglio di amministrazione, no? Sì, è diciamo la prima riunione del nuovo del CDA, sì, con il nuovo assetto societario. Non credo ci sia nulla di operativo, semplicemente per fare un po' il punto post aumento, poi alla fine del mese invece dovrebbe esserci il CDA sui conti dove si vedrà un po'. Scusa Antonella, un'ultima cosa, però adesso immaginiamo che Della Valle, come tu ipotizzi, non sottoscriva l'inoptato, cioè quello che manca ancora da essere sottoscritto, circa il 15% del capitale. Sì. Fiat lo fa e poi l'assetto, diciamo, di forza è quello che tu descrivevi, no? Nei rapporti di forza. A questo punto Cioè, Della Valle cosa può fare? Ma se vogliamo fare invece un'altra... Io dico quello che mi sembra, leggendo le varie dichiarazioni, che potrebbe essere lo scenario. Possiamo fare anche un altro scenario al quale personalmente assegno una probabilità inferiore. Però, se Della Valle sottoscrivesse tutto l'inoptato, cosa che non... mettiamo che sottoscrive tutto l'inottato, resterebbe comunque di un soffio sotto Fiat. Sì, perché non... 15 più... Esatto, sì, sì. Sì, no, è l'11 è la quota del capitale, perché 15 è l'offerta, ma insomma verrebbe che avrebbe intorno al 20%, la Fiat 20,1, insomma qualcosina di più. Quindi, diciamo, come valore segnaletico non sarebbe comunque il primo azionista. Ma se lo facesse... Io dico che allora bisognerebbe anche forse aspettarsi uno scenario da OPA, perché quella sarebbe veramente l'azione dirompente che cambierebbe i vecchi equilibri, altrimenti non ci vedo molti margini per cambiare i vecchi equilibri, essendo che c'è comunque un patto che non vedo perché dovrebbe avere interesse a sto punto né di chi ci ha messo i soldi, né di chi ce li ha messi parziali, né di chi si è fatto diluire a cambiare adesso le cose. Ha tutto il modo di discutere da qui alla primavera se come cambiare, quanto rinnovare, chi esce, chi entra. Non vedo che abbiano interesse a un scioglimento anticipato del patto, come vorrebbe invece Mediobanca, ma del resto... Non può essere un unico azionista a cambiare il corso delle cose, essendo certo. Che il patto, per quanto bizantino, prevede in questi casi l'unanimità. Non ce la vedo. Per cui tu dici, l'altra possibilità è che Della Valle raccolga tutto l'inoptato e a questo punto però sarebbe un po' andremo vicini... indicativo della volontà di fare un'OPA, altrimenti rischierebbe di star fuori con una quota importante... E in qualche modo allora, cerco di tradurre, cioè, se Della Valle compra anche il restante 11% e va al 20 contro il 20,1 di Fiat, a questo punto non avrebbe senso fare questa operazione per Della Valle, a meno che uno non volesse fare un'OPA, perché è inutile spendere tutti questi soldi per stare di uno 0,1 sotto Fiat, quindi non essere il primo azionista. Oltretutto che Fiat è all'interno di un patto Fiat dentro un patto che ha più del 50%, quindi a quel punto avrebbe un senso solo in un'ottica di offerta pubblica di acquisto. Però allora se vogliamo ragione, perché dico che è meno probabile? Perché credo che tremerebbero i polsi a chiunque, nel senso che RCS è una società comunque che ha dei problemi che non sono tutti risolti con questo aumento di capitale, lo sanno gli stessi azionisti che infatti hanno dato una delega per una sottoscrizione ulteriore di un aumento di capitale di 200 milioni ancora, quindi ho capito, sarebbe un passo diciamo bello coraggioso se non azzardato secondo alcuni. Grazie Antonello Olivieri del Sole 24 Ore, adesso il traffico e poi parliamo dello shopping francese in Italia, se è vero. Se è giusto che sia argomento di polemica, a mio avviso no, ma comunque ne parliamo. Nel 2011 la Maison Gianfranco Ferré viene ceduta al Paris Group di Dubai. Sempre nel 2011 il marchio Brioni passa a Kering, ex PPR, quindi Pinot. Bulgari passa a Louis Vuitton Moët&Cy e quindi Arnaud. Parmalat va ai francesi di Lactalis. Gancia viene acquistata al 70% dal russo Rustam Tarico, la Fiorucci Salumi acquistata dalla spagnola Campofrio Food Holding e Eridani Italia viene ceduto il 49% al gruppo francese Cristallalco. Sempre nel 2011 la maggioranza di Edison va al colosso francese elettricità EDF, nel novembre PPR e quindi Pinot rileva il marchio italiano Brioni, nel dicembre del 2011 Elland Ward compra il 49% di Coccinelle per 15,5 milioni. L'anno scorso la cinese Shandong acquista il 75% della Ferretti, cantiere di yacht di lusso. La succursale britannica di Mitsubishi acquista il 51% della Foggiana AR Industrie Alimentari, fanno pelati. La Star passa al 75% nelle mani spagnole del gruppo alimentare di Barcellona, Galina Blanca. Eschigel, che produce gelati in vaschetta, viene ceduto agli inglesi. E poi l'Audi compra la Ducati per 860 milioni dopo aver preso già Lamborghini e Ital Design Giugiaro. Valentino passa ai reali, al fondo dei reali del Qatar, che già quota di Porsche, Barclays e di Harrods. Un imprenditore cinese quest'anno compra un'azienda agricola del Gallo Nero del Chianti Classico. Il 25% di Risoscotti è ceduto alla multinazionale spagnola Ebro Foods. E poi sempre PPR, e quindi sempre Pinot, compra la maggioranza di Pomellato ad aprile. Infine Cova, la pasticceria milanese minore, al gruppo Louis Vuitton Moanessi. E la notizia di ieri: l'80% di Loro Piana va in mano sempre a Louis Vuitton Moanessi. E quindi Arnaud, uomo più ricco di Francia, più ricco del mondo in alcune classifiche addirittura, mi sembra un po' strano, quarto uomo più ricco del mondo, sapevo io, è uomo più ricco di Francia. Comunque, detto questo, Sergio e Loro Piana incassano 2 miliardi e conservano il 20% della società. Giovanni Tamburi, presidente, amministratore delegato della Tamburi Investment Partners, buonasera. Buonasera a tutti. Lei di lavoro compra pezzi o maggioranza di società, investe soldi di chi glieli presta, di chi da gestire, in private equity, come si chiama in gergo, quindi nell'acquisto di quote, ripeto, o la maggioranza di società. E grazie anche al professor Carlo Alberto Cannevale Maffè, che insegna strategie politiche aziendali alla SDA Bocconi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Cannevale Maffè, stiamo vendendo, cioè chi c'è, svendendo i marchi di prestigio del paese? 2 miliardi e mezzo non so se è una svendita il valore di Loro Piana. Io dico chapeau a Alvemash, che ha usato circa 5 mesi del suo cash flow operativo per comprarsi semplicemente il non plus ultra della scienza tessile italiana e mondiale. No, non stiamo svendendo, è il destino naturale delle medie imprese d'eccellenza italiana a finire in contesti dove ci sono i capitali e la cultura manageriale per garantire loro un percorso di crescita che nel contesto di un capitalismo italiano asfittico e un po' distratto ovviamente potrebbero non avere. Quindi in realtà è una buona notizia sia per le imprese che per le filiere sottostanti. Cresceranno, come per esempio dimostrerà, forse non l'hai citata, Richard Ginori, o Ginori che si voglia dire, giusto. Comprata da Gucci pochi mesi fa, dal fallimento di un imprenditore italiano che l'aveva comprata non esattamente a fini istituzionali, fammi dire che parlerà, penso, spero, la storia, i numeri. Loro Piana crescerà ancora di più di quanto è già peraltro cresciuta bene in questi anni. Beh, una cosa, poi adesso arrivo anche a Giovanni Tamburi. C'è chi dice: attenzione, il problema non è tanto il marchio, ma la catena, la filiera. Ora, l'esperienza di Gucci Bottega Veneta, per esempio, è un'esperienza positiva, i fornitori sono rimasti più o meno gli stessi. E un'altra critica che viene mossa è dire: vabbè, ma hanno venduto anche se non c'era un bisogno, in alcuni casi, penso a Bulgari, penso a Loro Piana, non c'era un bisogno immediato di vendere, non c'erano difficoltà finanziarie. Ma dipende dal piano industriale. Loro Piana sta crescendo, ha fatto più 20% di esportazione l'anno scorso, ma aprire punti vendita diretti su un mercato così di nicchia, così difficile da servire, accettare la grande sfida di una logistica distributiva sull'e-commerce che è indispensabile per competere per i prossimi 10 anni, richiede capitali e management che una media impresa italiana semplicemente non ha, o se ha paga con un cuneo fiscale e con uno spread per colpa, diciamo, dello stato che ci ritroviamo, del tutto non competitivi. Quindi certo che è il momento di farlo, a queste cifre non è neanche da discutere che i Loro Piana hanno fatto bene a vendere, e con le prospettive che Alvemash mette sul tavolo e con la storia che Alvemash ha in Italia, sono i primi più maniaci a voler mantenere la qualità della tradizione manifatturiera della filiera, ci mancherebbe altro. Mm-hmm. Non spendono questa cifra per poi sbracare sul brand e sulla storia della filiera. La mia esperienza con loro è che sono i primi a voler mantenere qualità della filiera. Semmai qual è il problema o l'opportunità? Che sfidano tutta la filiera, quindi i fornitori tier 1, ma anche in più in basso, a livelli di servizio, impegni di standard globale. Quindi la fanno crescere la filiera, perché il management di Alvemash è un management molto professionale che sfida i fornitori tradizionali a uscire dalla logica un po' provinciale della fornitura a vista e entrare in logiche di supply chain internazionale. Nel 2012 la Campari S.p.A. compra la giamaicana La Shell del Mercado, Snam Rete Gas compra il 31,5% di Interconnector, Eni compra il 100% di Nuon Belgium NV, Tenova, Gruppo Techint compra il 100% dell'olandese Bateman Engineering, Datalogic compra la statunitense Acusol Systems, Buzzi Unicem compra il 3% della tedesca Dikeroff, Pirelli acquista il 100% della svedese Dacia Holding, Recordati acquista il 100% della russa Zao Akvion. Queste sono le operazioni Italia su estero. Faccio solo notare una cosa però, che tutto il valore di quanto gli italiani hanno comprato all'estero nel 2012 vale solo l'operazione loro piana dei francesi, cioè 1,8 miliardi, ed è il valore più basso dal 2000, meno 46% come acquisti italiani all'estero rispetto al 2011. Giovanni Tamburi, io personalmente dico da sempre che a noi mancano i capitali stranieri, quando arrivano, se comprano bene, se non distruggono la filiera, non mi straccerei le vesti. Comunque, il tema resta, la sensazione ogni tanto è che non sappiamo proteggere i nostri marchi più prestigiosi. Ma il tema non è questo, il tema è che vogliamo un mondo globale, abbiamo voluto un mondo globale, io concordo perfettamente con quello che il professore ha detto prima, mi sembra provinciale cominciare a ragionare o continuare a ragionare su questo discorso Italia, Francia, estero, eccetera. Siamo in un mondo globale, siamo in Europa unita, che poi l'Italia soffra dinamismo e che noi sono più le operazioni che subiamo come Italia che viene comprata che non come Italia che compra, è un qualche cosa che sappiamo da 30 anni e fine lì. C'è anche da dire, al di là delle operazioni che avete appena citato, Italia su estero, che ce ne sono molte altre, perché anche quel 1,8 miliardi solo delle operazioni vissute da noi, per cui Draga comprata da Prysmian, Interpump che ha comprato altre aziende, noi che abbiamo comprato Roche-Beaubois, eccetera, ce ne sono molte altre, per cui a volte si fa ogni buon fascio e si finisce per essere più pronti a segnalare le cova, che è una pasticceria. Sì, no, sono d'accordo. Giornali interi che parlano di pasticceria cova, che poi diventerà un negozio, di Vito Prada, onestamente, ma sai, non ci fa molta notizia. Sai, i giornalisti amano poi queste cose anche di colore, però mi dico una cosa, ma la sensazione, fermo restando che io sono d'accordo con voi due, nel senso, arrivano capitali, siamo in un mondo globale, se c'è un'offerta come quella, e non avrei così paura di un trasferimento di risorse, perché nessuno è così stupido da rompere un giocattolo che funziona. Però forse il tema, Tamburi, per concludere, della difesa dei marchi, cioè anche a me però piacerebbe che fosse un italiano a comprare alcuni marchi italiani. Cosa c'è? Mancano i capitali, non c'è la voglia di rischiare, ci mancano i grandi gruppi? Ma allora, sicuramente mancano i grandi gruppi, anche se ricordiamoci di Luxottica in questo settore. Ricordiamoci di Fiat, quando ci hanno sentiti l'ultima volta con voi, io accennavo del fatto, si parlava di risparmiatori, che forse una delle più belle società da comprare oggi in borsa era Fiat, basta guardare cosa ha fatto Fiat negli ultimi anni e negli ultimi mesi, e Fiat ha comprato Chrysler, cioè non dimentichiamo anche queste cose qua. No. Al di là di questo ci sono operazioni, a me personalmente, egoisticamente, avrebbe fatto piacere che quando noi siamo entrati in Roche-Beaubois, per cui il primo gruppo di arredamento del mondo, 500 negozi al mondo, tre articoletti, quattro cose, ma non questo grande clamore. Purtroppo l'Oro Piana fa più clamore e fa la prima parte del Corriere. Per cui cerchiamo anche di essere un pochino più aperti, tutti quanti, voi media in primis, a queste cose qua. Perché di cose italiane ce ne sono, nei prossimi giorni ce ne saranno anche di italiani che comprano pezzi di marchi molto importanti. Ha qualche notizia da anticiparci? Assolutamente non si può, ma ce ne quindi saranno. Ce l'ha, ma non ce la può dire? Certo. Dove? In che ma settore? Lasciamo perdere questo settore qua di cui stiamo parlando. Sempre della moda? Certo. E per cui Milano, Firenze, cose... Roma? Io no, lasciamo perdere. Dai, lasciamo Tamburi, perdere. Non ci lasci così. Però, dai, che poi non riusciamo. Attenti a noi italiani, le Luxottica, le Fiat, le Prysmian Draga, noi con le nostre. No, ho capito la ragione. Ma mi dice qual è questa operazione? No. Perché no? Perché voglio semplicemente spiegare al mondo che ci saranno. Mi dica quando arriva questa operazione. Speriamo prima dell'estate. Prima dell'estate. Siamo già in estate, Tamburi. Prima di agosto. Prima di agosto, a luglio. Ce la viene a commentare in diretta? Volentieri. volentieri, con grandissimo piacere, così ci divertiamo un po' di più che non in questi tre minuti un po' stiracchiati di oggi. Tambure, è tutta una critica oggi, siamo provinciali, no, ma a parte le battute, no, mi interessa molto questa cosa che c'è nel finale. Intanto ringrazio Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato di Tamburi Investment Partners, che non ci vuole dire, mi sembra di capire, che cosa va a comprare all'estero nel mondo della moda, no? No, non ce lo vuole dire. Più avanti, grazie anche a Carlo Alberto Canevale Maffè, che insegna strategie politiche aziendali alla SDA Bocconi. Allora, in attesa di rivedere Tamburi, a operazione conclusa, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Quoa Lean Society Forum, 19-20 novembre. Info leancenter.it. Vi ha presentato Focus Economia.